Libro 7. Due tentazioni. Capitolo 63. Negli ultimi tempi avete visto Lydgate, la vostra fenice della scienza? Chiese Mr. Toller durante una delle sue cene natalizie parlando con Mr. Fairbrother, che era alla sua destra. Non spesso, mi duole dirlo, rispose il parroco abituato a scansare le battute ironiche di Mr. Toller sulla sua fiducia nel nuovo luminare medico. Io abito lontano e lui è troppo occupato. Davvero? Sono lieto di sentirlo dire, fece il dottor Minchin con un misto di garbo e di stupore. Dedica molto del suo tempo al nuovo ospedale, disse Mr. Fairbrother, che aveva i suoi buoni motivi per insistere sull'argomento. Me lo dice la mia vicina, Mrs. Casebo, che ci va spesso. Afferma che Lydgate è infaticabile e sta facendo dell'istituzione di Balstrow una grande cosa. Sta preparando una nuova corsia nel caso che il colera arrivi fino qui. E teorie di trattamento da sperimentare sui pazienti? Immagino, disse Mr. Toller. Andiamo, Toller, siate sincero, disse Mr. Fairbrother. Siete troppo intelligente per non vedere il beneficio di un'audace mente giovane in medicina, come in qualsiasi altro campo. E quanto al colera, immagino che nessuno di voi sa con certezza cosa dovrebbe fare. Se uno si spinge un po' troppo avanti lungo una nuova strada, di solito è a se stesso che nuoce, più che a chiunque altro. Sono sicuro che voi e Wrench dovreste essergli obbligati, disse il dottor Minchin guardando alla volta di Toller, perché vi ha mandato il fiorfiore dei pazienti di Peacock. Lydgate sta facendo una gran vita per un giovane principiante, disse Mr. Harry Toller, il birraio. Suppongo che lo mantengano i suoi parenti del nord. Spero di sì, disse Mr. Kingsley, altrimenti non avrebbe dovuto sposare quella bella ragazza di cui tutti andavano così pazzi. Diavolo! Uno prova rancore verso un uomo che si porta via la ragazza più carina della città. Già, per Dio, è anche la migliore, disse Mr. Standish. Al mio amico Vincey il matrimonio non è andato giù neanche un po', questo lo so, disse Mr. Kingsley. Lui non ha voluto aiutarli molto. Quanto possano avere scucito i parenti dall'altra parte, non so. C'era un marcato genere di reticenza nel modo di parlare di Mr. Kingsley. Oh, non direi che Lydgate abbia mai considerato l'attività come un mezzo di sussistenza, disse Mr. Toller con una punta di sarcasmo, e su questo l'argomento fu lasciato cadere. Questa non era la prima volta che Mr. Fairbrother sentiva dire che le spese di Lydgate erano ovviamente troppo alte per essere pagate dalla sua attività, ma pensava che non fosse improbabile che ci fossero speranze di risorse che giustificavano la grossa spesa al tempo del suo matrimonio e che queste potessero prevenire qualsiasi spiacevole conseguenza per la delusione datagli dall'attività. Una sera, quando si prese la briga di recarsi a Middlemarch allo scopo di fare quattro chiacchiere con Lydgate come un tempo, notò in lui un'aria di eccitazione forzata, completamente diversa dal suo consueto, tranquillo modo di starsene zitto o di sbottare con brusca energia ogni qualvolta aveva qualcosa da dire. Lydgate parlò in continuazione quando furono nel suo laboratorio, avanzando argomentazioni pro e contro la probabilità di certe concezioni biologiche, ma non aveva nessuna di quelle cose ben precise da dire o da mostrare che danno il punto di una ricerca paziente ininterrotta. Qual era quella su cui era solito insistere, dicendo che in ogni indagine ci deve essere una sistole e una diastole? E che la mente di un uomo si deve espandere e restringere continuamente fra l'intero orizzonte umano e l'orizzonte di una lente di microscopio. Quella sera sembrava che parlasse estesamente allo scopo di resistere a ogni riferimento personale, e dopo poco andarono nel salotto, dove Lydgate, dopo aver chiesto a Rosamond di suonare loro qualcosa, sprofondò nella sua poltrona in silenzio, ma con una strana luce negli occhi. Può darsi che prendano piaccio, fu il pensiero che attraversò la mente di Mr. Fairbrother. Nevralgia del trigemino, forse, o preoccupazioni professionali. Non gli venne da pensare che il matrimonio di Lydgate non fosse una delizia. Egli credeva, come gli altri, che Rosamond fosse una creatura amabile e docile, sebbene l'avesse sempre considerata piuttosto insignificante, un po' troppo simile a un esemplare modello da collegio femminile. E sua madre non poteva perdonare Rosamond perché questa non sembrava mai accorgersi che Henrietta Noble si trovava nella stanza. Comunque Lydgate si è innamorato di lei, si disse il parroco, e deve piacere ai suoi gusti. Mr. Fairbrother era consapevole che Lydgate era una persona orgogliosa, ma avendo egli assai poca fibra simile in sé e dando forse troppo poca importanza alla dignità personale, tranne la dignità di non essere meschino o stupido, difficilmente gli riusciva di dare una spiegazione al modo in cui Lydgate evitava, come una bruciatura, di pronunciare una parola qualsiasi sulle proprie faccende private. E subito dopo quella conversazione a casa di Mr. Toller, il pastore apprese qualcosa che lo indusse a cercare con maggiore impazienza un'occasione di far sapere indirettamente Lydgate che se voleva sfogarsi su una qualsiasi difficoltà, un orecchio amico era pronto ad ascoltarlo. L'occasione si offrì a casa dei Vincey, dove il giorno di Capodanno c'era un ricevimento a cui Mr. Fairbrother fu invitato di forza, con la preghiera che non doveva abbandonare i suoi vecchi amici il primo nuovo anno in cui era diventato un uomo più importante e rettore, oltre che vicario. E questo ricevimento fu davvero cordiale. Tutte le donne della famiglia Fairbrother erano presenti, tutti i figli di Vincey pranzarono a tavola e Fred aveva persuaso alla madre che se questa non avesse invitato Mary Garth, i Fairbrother l'avrebbero considerato un'offesa nei propri confronti, poiché Mary era una amica intima. Mary venne e Fred era di buon umore, per quanto la sua gioia fosse di un genere variegato. Il senso di trionfo che sua madre si rendesse conto dell'importanza di Mary agli occhi delle persone principali presenti al ricevimento era assai venato di gelosia quando Mr. Fairbrother le si sedeva accanto. Fred era stato assai più fiducioso delle proprie doti nei giorni in cui non aveva cominciato a temere di essere scavalcato da Mr. Fairbrother, e questo terrore l'aveva ancora presente. Mrs. Vincey, in tutto il suo fulgore di madre di famiglia, guardava la figura di Mary, capelli ruvidi e ondulati, viso assolutamente privo di ciglia e di rose, e si stupiva. Cercava senza successo di immaginarsi interessata dell'aspetto di Mary in abito nuziale o compiaciuta di nipoti che fossero il ritratto dei Garth. Tuttavia il ricevimento fu allegro e Mary fu particolarmente brillante. Era felice, per amore di Fred, che i familiari di lui si mostrassero più gentili nei suoi confronti ed era anche assai disposta a mostrare loro quanto fosse stimata da altri a cui dovevano riconoscere la capacità di giudicare. Mr. Fairbrother notò che Lydgate sembrava annoiato e che Mr. Vincey parlava il meno possibile al genero. Rosamond era perfettamente aggraziata e tranquilla, e solo ad un'attenta osservazione, quale il parroco non si sentiva spinto a dedicarle, si sarebbe potuto notare la totale mancanza di quell'interesse verso la presenza del marito che una moglie amorosa sicuramente tradisce, anche se l'etichetta la tiene separata da lui. Quando Lydgate prendeva parte alla conversazione, lei non guardava la volta di lui più di quanto avrebbe potuto fare una scultura di psiche modellata per guardare altrove. E quando, dopo essere stato chiamato fuori per un paio di ore, egli rientrò nella stanza, le sembrò non rendersi conto di questo fatto che 18 mesi prima avrebbe avuto l'effetto di un numero davanti a degli zeri. In realtà, però, era intensamente conscia della voce dei movimenti di Lydgate e la sua aria graziosa e bonaria di indifferenza era una negazione studiata con cui soddisfaceva la propria opposizione interiore a lui senza ignorare completamente il decoro. Quando le signore si trovarono nel salotto dopo che Lydgate era stato chiamato via al momento della frutta, Mrs. Fairbrother, quando per caso Rosamond le fu vicina, disse: «Dovete rinunciare a gran parte della compagnia di vostro marito, Mrs. Lydgate». Sì, la vita di un medico è assai ardua, soprattutto quando è così dedito alla propria professione come Mr. Lydgate, disse Rosamond, che era in piedi, e si allontanò tranquillamente a termine di questo discorsetto corretto. È terribilmente monotono per lei quando non c'è compagnia, disse Mrs. Vincey, che era seduta di fianco alla vecchia signora. Sono certa di aver pensato così quando Rosamond era malata. Io stavo con lei. Sapete, Mrs. Fairbrother, la nostra è una casa gioiosa. Anch'io sono di temperamento allegro e a Mr. Vincey piace sempre che ci sia qualche festa. È a questo che Rosamond è stata abituata. Molto diverso da un marito che esce alle ore più strane, non si sa mai quando arriverà a casa. È di temperamento chiuso e orgoglioso, io penso. L'indiscreta Mrs. Vincey abbassò leggermente il tono della voce a questa parentesi. Ma Rosamond ha avuto sempre un temperamento angelico. I suoi fratelli molto spesso non le andavano a genio, ma lei non è mai stata la ragazza da mostrarsi irritata. Fin da piccola è sempre stata buona, che più buona non si può, e con un carattere insuperabile. Ma i miei figli sono tutti di temperamento buono, grazie a Dio. Ciò lo poteva credere facilmente chiunque guardasse Mrs. Vincey mentre buttava all'indietro i larghi nastri della cuffia e sorrideva alla volta delle tre figliolette che avevano dai 7 agli 11 anni. Ma in quello sguardo sorridente fu obbligata a includere Mary Garth, che le tre ragazzine avevano spinto in un angolo perché raccontasse loro delle storie. Mary stava proprio terminando la storia deliziosa di Rumpelstiltskin, che conosceva bene a memoria, perché Letty non si stancava mai di leggerla ai suoi ignoranti genitori da un volume rosso che era il suo preferito. Louisa, la prediletta di Mrs. Vincy, ora corse da lei con occhi spalancati e seriamente eccitati, gridando: «Oh, mamma, mamma, l'omino ha buttato il piede così forte sul pavimento che non è riuscito a tirar fuori la gamba di nuovo!» «Dio ti benedica, angelo mio», disse la madre, «mi racconterai tutto domani, vado ad ascoltare». E poi, mentre con gli occhi seguiva Luisa che tornava verso l'angolo avvincente, pensò che se Fred avesse voluto invitare di nuovo Mary, lei non si sarebbe opposta, dal momento che i bambini erano così soddisfatti di lei. Ma ben presto l'angolo si animò ancora di più, perché Mr. Fairbrother si introdusse e, sedutosi dietro a Luisa, la prese sulle ginocchia, al che le bambine insistettero perché ascoltasse Rumpelstiltskin e perché Mary lo raccontasse di nuovo. Anche lui insistette e Mary, senza complimenti, cominciò nel suo modo accurato, esattamente con le stesse parole di prima. Fred, che si era anch'egli seduto lì vicino, avrebbe provato un senso di trionfo completo per l'eloquenza di Mary, se Mr. Fairbrother non l'avesse guardata con palese ammirazione, mentre invece fingeva un intenso interesse per il racconto per compiacere le bambine. «Non vorrei più sentir parlare del mio gigante con un occhio solo, Lou», disse Fred alla fine. «Sì che vorrò. Racconta di lui adesso», disse Luisa. «Oh, dico, sono del tutto soppiantato. Chiedi a Mr. Fairbrother». «Sì», soggiunse Mary, «chiedi a Mr. Fairbrother di raccontarti la storia delle formiche, la cui magnifica casa fu abbattuta da un gigante di nome Tom, e lui pensò che a loro non importasse perché non poteva sentirle piangere o vederle usare i fazzoletti». «Vi prego», disse Luisa, alzando gli occhi verso il pastore. «No, no, no, no, sono un vecchio pastore serio. Se cerco di tirar fuori una storia dalla mia bisaccia, al suo posto ne viene un sermone. Volete che vi reciti un sermone?» E gli disse, inforcando i suoi occhiali da miope e increspando le labbra. «Sì», disse Luisa esitante. «Vediamo allora. Contro le torte. Come le torte sono così cattive, soprattutto se sono dolci e contengono uva passa». Luisa prese la cosa piuttosto sul serio e scese dalle ginocchia del pastore per andare da Fred. «Vedo che non va bene predicare di Capodanno», disse Mr. Fairbrother alzandosi e allontanandosi. Ultimamente si era accorto che Fred era diventato geloso di lui e anche che lui stesso non la smetteva di preferire Mary a tutte le altre donne. «Giovane deliziosa Miss Gert», disse Mrs. Fairbrother, che aveva osservato i movimenti del figlio. «Sì», disse Mrs. Vincy, obbligata a rispondere poiché la vecchia signora si volse verso di lei con aria di attesa. «Peccato che non abbia un aspetto migliore». «Non saprei dirlo», fece Mrs. Fairbrother con decisione. «Mi piace la sua espressione. Non dobbiamo sempre chiedere la bellezza quando un buon Dio ha pensato giusto fare una giovane eccellente senza di essa. Io pongo in primo luogo la buona creanza e Miss Gertz saprà come comportarsi in qualsiasi condizione sociale». La vecchia signora parlò con un tono un po' aspro, pensando all'eventualità che Mary diventasse sua nuora. Infatti, nella posizione di Mary riguardo a Fred c'era questo inconveniente, che non era opportuno che fosse resa di pubblico dominio e quindi le tre donne della parrocchia di Lowick speravano ancora che Camden avrebbe scelto Miss Gerd. Nuovi visitatori fecero il loro ingresso e il salotto fu destinato alla musica e ai giochi, mentre i tavolini da whist furono approntati nella tranquilla stanza all'altro lato del salone. Mr. Fairbrother giocò una partita per soddisfare la madre, la quale considerava la propria occasionale partita a whist una protesta contro lo scandalo e le nuove opinioni, in confronto alle quali anche non rispondere aveva una sua dignità. Ma egli finì per indurre Mr. Keighley a prendere il proprio posto e lasciò la stanza. Mentre attraversava il salone, Lydgate era appena entrato e si stava togliendo il cappotto. «Proprio voi», disse il parroco, e invece di entrare nel salotto, percorsero il salone e si fermarono davanti al focolare dove l'aria gelida contribuiva a innalzare una catasta rovente. «Vedete, posso lasciare il tavolo da whist con gran facilità», egli proseguì sorridendo alla volta di Lydgate. «Ora non gioco per i soldi». «Questo lo devo a voi», dice Mrs. Casabo. «In che modo?» fece Lydgate con freddezza. «Non volevate che io lo sapessi?» «Questa io la definisco reticenza ingenerosa. Dovreste lasciare a uno il piacere di sapere che gli avete fatto un servizio. Non sono d'accordo con l'avversione di alcuni ad avere degli obblighi. Parola mia, preferisco essere obbligato verso tutti per essersi comportati bene nei miei confronti. Non capisco cosa vogliate dire, fece Lydgate, a meno che non vi riferiate al fatto che una volta ho parlato di voi a Mrs. Casebo. Ma non pensavo che lei sarebbe venuta meno alla promessa di non fare cenno di quanto avevo fatto, disse Lydgate appoggiando la schiena contro l'angolo della mensola e privo di ogni radiosità in volto. È stato Brooke a rivelarmelo solo l'altro giorno. Mi ha fatto il complimento di dirmi che era assai felice che fossi io ad avere la parrocchia, anche se voi vi siete intromesso nella sua tattica e mi avete lodato paragonandomi a un Ken o a un Tillotson e cose del genere. Finché Mrs. Casebo non ha voluto sentir parlare di nessun altro. Brooke è un tale stupido privo di riservatezza, disse Lydgate con disprezzo. Beh, allora la mancanza di riservatezza mi ha fatto piacere. Non capisco perché non vi debba andare che io sappia che avete voluto farmi un servigio, mio caro amico. Certamente uno me l'avete fatto. È un freno piuttosto forte al proprio autocompiacimento scoprire in quale grande misura il proprio retto agire dipende dal non aver bisogno di denaro. Uno non sarà tentato di recitare il Padre Nostro alla rovescia per compiacere il diavolo, se non ha bisogno dei servigi del diavolo. Adesso io non ho bisogno di aspettare che mi sorrida la fortuna. Non credo che ci sia alcun guadagno senza l'intervento della fortuna, disse Lydgate. Se uno se lo procura con una professione, si può stare assai sicuri che comunque la fortuna l'abbia aiutato. Mr. Fairbrother pensò di poter spiegare questo discorso, in stridente contrasto col precedente modo di parlare di Lydgate, come l'ostinazione che spesso nasce dal malumore di un uomo preoccupato dalle proprie faccende domestiche, rispose con un tono di bonaria ammissione. Ah, è necessaria una pazienza enorme col mondo, così come va. Ma per uno è più facile attendere pazientemente quando ha degli amici che gli vogliono bene e non chiedono nulla di meglio che di aiutarlo a superare la crisi per quello che è il loro potere fare. Oh sì, disse Lydgate in tono noncurante, cambiando posizione e guardando l'orologio. La gente dà alle proprie difficoltà un'importanza molto superiore a quella che si meritano. Si rese conto nel modo più chiaro possibile che questa era un'offerta di aiuto da parte di Mr. Fairbrother ed egli non poteva sopportarlo. Noi mortali siamo così stranamente fatti che dopo essere stato gratificato a lungo dal pensiero di aver fatto segretamente un servigio al parroco, l'idea che il parroco si rendesse conto che gli aveva bisogno di un altro servigio in cambio lo fece ritrarre al riparo di una reticenza invincibile. D'altra parte, dietro a tutte queste profferte, cos'altro doveva venire? Che egli dovesse parlare del proprio caso, sottintendere che aveva bisogno di cose specifiche? In quel momento il suicidio gli parve cosa più facile. Mr. Fairbrother era un uomo troppo acuto per non conoscere il significato di quella risposta, e nel tono e nel comportamento di Lydgate vi era una certa imponenza pari a quella del suo fisico. Tale che se egli respingeva le offerte fin dal primo momento, sembrava mettere fuori discussione ogni altro stratagemma persuasivo. Che ora fate? Chiese il parroco, soffocando il proprio sentimento ferito. Le 11 passate, disse Lydgate, ed entrarono nel salotto. Capitolo 64. Anche se Lydgate fosse stato propenso ad aprirsi completamente sulle proprie faccende, sapeva che ben difficilmente Mr. Fairbrother avrebbe avuto la facoltà di fornirgli l'aiuto di cui aveva un bisogno immediato. Con i conti annuali che gli giungevano dai fornitori, con l'ipoteca minacciosa di Dover sui mobili e con nulla su cui contare tranne lenti pagamenti col contagocce da parte di pazienti che non bisognava offendere, poiché i ricchi onorari ricevuti da Freshitt Hall e da Lowick Manor erano stati ben presto spesi, non meno di 1.000 sterline lo avrebbero potuto liberare dalle difficoltà economiche attuali e gli avrebbero lasciato una somma residua che, secondo l'espressione favorita in tali circostanze, gli avrebbe dato il tempo di guardarsi attorno. Naturalmente, il buon Natale, portando con sé il felice anno nuovo, quando i concittadini si aspettano di vedersi pagati i disturbi e le merci che con aria sorridente hanno concesso al loro prossimo, aveva aumentato l'assillo di sordide preoccupazione nella mente di Lydgate a tal punto che a questi non era possibile pensare ad altro, anche al più abituale e invitante argomento. Non era una persona irascibile, la sua attività intellettuale, l'ardente generosità di cuore, oltre alla sua forte struttura, lo avrebbero sempre in condizioni abbastanza tollerabili tenuto al di sopra delle meschine suscettibilità incontrollate che costituiscono l'irascibilità. ma ora era preda di quella peggiore irritazione che nasce non semplicemente dal fastidio, ma anche dalla consapevolezza di ciò che è alla base di questi fastidi. Uno spreco di energia e una preoccupazione degradante che erano l'opposto di tutte le sue mire precedenti. Questo è ciò a cui sto pensando e quello è ciò a cui avrei potuto pensare. Era l'aspro, incessante mormorio dentro di lui che rendeva ogni difficoltà un duplice pungolo per l'impazienza. Alcuni signori hanno fatto una figura sorprendente nel campo della letteratura, mostrandosi totalmente scontenti dell'universo, giudicando una trappola della stupidità in cui le loro grandi anime sono precipitate per sbaglio. Ma il senso di un io stupendo e di un mondo insignificante può portare a qualche consolazione. La scontentezza di Lydgate era molto più difficile da sopportare. Era la sensazione che attorno a lui ci fosse una magnifica esistenza per il pensiero e un'azione efficace, mentre il suo io veniva imprigionato nel miserabile isolamento delle paure egoistiche e delle volgari aspettative di avvenimenti che avrebbero potuto sedare simili timori. I suoi guai, forse, sembreranno miserabilmente sordidi e immeritevoli dell'attenzione di altolocati personaggi che non possono saper nulla di debiti se non su lunga scala. Non c'è dubbio che fossero sordidi e per la maggioranza, che non è altolocata, non si sfugge a quella natura sordida. Se non con l'assenza del bisogno di denaro, con tutte le sue meschine speranze e tentazioni, la sua attesa della morte, le sue richieste allusive, il suo desiderio da cavallaio di fare passare per buono un lavoro mal fatto, la sua ricerca di un'occupazione che dovrebbe essere di un altro, la sua frequente spinta ad augurarsi l'intervento della fortuna sotto forma di una grande calamità. Era perché si dibatteva l'idea di porre il proprio collo sotto questo umiliante giogo che Lydgate era precipitato in uno stato di aspro malumore che non faceva che accrescere di continuo l'estraniamento di Rosamond da lui. Dopo la prima rivelazione sull'atto di vendita, egli aveva compiuto molti sforzi per attrarre la sua solidarietà in merito a possibili misure atte a limitare le spese e col minaccioso approssimarsi del Natale le sue proposte divennero sempre più definite. Possiamo fare solo con un servitore, vivere con molto poco, disse, e io mi arrangerò solo con un cavallo. Infatti, Lydgate, come abbiamo visto, aveva cominciato a ragionare con una visione più chiara sulle spese del tenore di vita e tutto l'orgoglio che poteva aver concesso ad apparenze di quel genere era ben poca cosa a paragonare dell'orgoglio che lo faceva ribellare all'idea di essere denunciato come debitore o di chiedere a della gente di aiutarlo finanziariamente. Naturalmente puoi licenziare gli altri due domestici se vuoi, disse Rosamond, ma a mio parere una vita di povertà sarebbe assai dannosa per la tua posizione. Devi aspettarti che i tuoi clienti diminuiscano. Mia cara Rosamond, non è una questione di scelta. Abbiamo cominciato in modo troppo dispendioso. Peacock, lo sai, viveva in una casa assai più piccola di questa. È colpa mia. Avrei dovuto essere più saggio e mi merito delle legnate. Se ci fosse qualcuno che avesse il diritto di darmele, per averti trascinata nella necessità di condurre una vita più povera di quella a cui eri abituata. Ma ci siamo sposati perché ci amavamo, suppongo. E questo può aiutarci a tirare avanti fino a tempi migliori. Andiamo, cara, metti giù quel lavoro e vieni da me. In realtà, egli era in preda a un freddo scoraggiamento nei confronti di lei in quel momento, ma temeva un futuro privo di affetti ed era deciso ad opporsi al sopraggiungere di una divisione fra di loro. Rosamond gli obbedì ed egli la prese sulle ginocchia, ma nel profondo dell'anima lei era distaccata più che mai da lui. La poverina vedeva solo che il mondo non era ordinato a suo piacimento e Lydgate faceva parte di quel mondo. Ma egli le tenne la vita con una mano e posò dolcemente l'altra su tutte e due le sue. Perché quest'uomo piuttosto brusco era molto tenero nel comportamento verso le donne e pareva che avesse sempre presente nella fantasia la debolezza della loro struttura, ma il delicato equilibrio della loro salute, sia fisica che mentale. E cominciò di nuovo a parlarle in tono persuasivo. Mi accorgo ora che esamino un po' le cose, Rosy, che è fantastica la quantità di denaro che se ne va per mandare avanti la nostra casa. Penso che la servitù sia negligente e abbiamo avuto una quantità di ospiti, ma ci devono essere molti del nostro ceto che ce l'hanno con molto meno. Devono accontentarsi di cose più andanti, suppongo, e guardare anche le briciole. Mi pare che i soldi c'entrino un po' in queste cose perché Vrench ha tutte le spese più comuni che si può e ha un numero assai alto di clienti. Non Se pensi di vivere come Fanny Wrench, disse Rosamond volgendo leggermente il collo, ma ti ho sentito esprimere il tuo disgusto per quel tenore di vita. Sì, hanno un gusto pessimo in tutto, fanno sembrare brutte le economie. Non è necessario che noi facciamo così. Intendevo solo dire che evitano le spese, sebbene Wrench abbia una clientela di prim'ordine. Perché non dovreste avere una buona clientela, Tertius? Mister Peacock ce l'aveva. Dovresti fare più attenzione a non offendere la gente, dovresti distribuire le medicine come fanno gli altri. Sono sicura che hai cominciato bene e ti sei procurato diverse buone famiglie. Non può andare bene fare l'eccentrico, dovresti pensare a ciò che va a genio in generale, disse Rosamond con un piccolo tono deciso di ammonimento. Questo suscitò l'ira di Lydgate. Era pronto ad essere indulgente verso le debolezze femminili, ma non verso i comandamenti femminili. La superficialità dell'anima di una ninfa marina può avere un suo fascino finché non assume un tono didattico. Ma si controllò e disse solo con una punta di fermezza dispotica: quello che devo fare nella mia attività, Rosie, sta a me giudicarlo. Non è questa una questione da discutere fra di noi. Ti basti sapere che le nostre entrate è probabile che siano molto scarse, 400 sterline a malapena, forse meno, per molto tempo ancora. E noi dobbiamo cercare di adattare il nostro tenore di vita a questo fatto.